26. Per oltre 2 anni Joseph era stato un foglio di carta, una grafia tozza, presenza da rintracciare nei sogni. 2 anni di parole senza voce, incontri senza corpo, domande ancora senza risposta. Ora la voce si era fatta più secca, come asciugata da un'arsura. Il volto sembrava lo stesso, solo le tempie erano appena imbiancate. Nuove domande mettevano in ombra il passato. La stanza era modesta, una branda, 2 sgabelli, un tavolo robusto, una finestra stretta. Joseph indossava giacca e pantaloni di lana, il collo della camicia chiuso da un fazzoletto nero. Sciolto l'abbraccio, chiese subito notizie di Kanayo Harie. Molly sedette sullo sgabello e massaggiò le gambe indolenzite. «Da quando Herkimer è morto nessuno tiene a bada i ribelli», rispose. «Rimanere era troppo pericoloso». Joseph si incupì. Estrasse la pipa e la tenne tra le mani, senza caricarla. «Come va la guerra?» chiese Molly. «Non bene. Il generale Burgoyne è stato sconfitto a Saratoga. L'offensiva dal Canada è fallita. Siamo costretti a svernare qui, mentre il fronte si sposta a sud». Seguì un silenzio fitto di pensieri. I rumori del campo rimanevano lontani. Fu Molly a parlare di nuovo. «Il fuoco sacro si è spento». Il fratello trattenne un moto di rabbia. «La lunga casa cade a pezzi», disse. «Gli Oneida stanno con i ribelli e i Tuscarora si lasciano tentare. Dio li maledica». «Anche tua moglie e i tuoi figli sono Oneida. Li farai venire qui? Sono già in viaggio». Joseph raggiunse la piccola finestra per guardare fuori. «Soltanto la paura può ricacciare indietro i coloni», proseguì. «Se vogliamo riprenderci la valle, dobbiamo isolarli, lasciarli senza cibo né aria». Molly intuì l'urgenza che aleggiava sulle parole. Rivide il sangue che inondava il bosco. La frontiera sarebbe diventata un campo di battaglia. Se questo era ciò che li attendeva, dovevano prepararsi a tempi ancora più duri. «Strani segni costellano i giorni, non è facile interpretarli. Perché Esther Johnson è qui?» «È arrivata insieme a Philip», rispose Joseph. «Vive nascosta all'accampamento. Non vuole che i bianchi la rispediscano a Montreal». «Lui dov'è?» Joseph indicò l'esterno. «Sempre nei boschi, a cacciare. I Seneca hanno concesso i loro territori a patto che sia lui a guidare le battute. Raccontano strane storie sul suo conto. Dicono che la notte non dorme e al mattino torna al bivacco con prede enormi». Tornò a sedersi e a guardare la sorella. «Qualcosa è cambiato in lui. È stato dopo Oriscani, dopo che ha ucciso Shononsess». «Ho saputo. Ronaterionte ha molti spettri al suo fianco». Joseph le sfiorò la spalla. «Anche i tuoi occhi sono cambiati. C'è qualcosa che mia sorella non mi ha detto». Molly assunse un'espressione dura. «Io e i miei figli abbiamo subito ingiurie e minacce». «Chi è stato?» «Jonas Klug». Joseph serrò la mandibola. Molly chiuse gli occhi e lasciò che l'odio sgorgasse dal cuore. «Ho sognato di prendere a calci la sua testa. Ho sognato che tu me la portavi in regalo». Vide i muscoli del fratello contrarsi. «Verrà il giorno».